Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Mai come adesso hobby e manie trovano una loro ragion d'essere nel mondo dei consumi. Grazie al digitale diventano community, siti di e-commerce o il terreno su cui costruire nuove professioni. Questo è il filo rosso che unisce le storie di questa puntata. Focus sui trend dedicato invece ai consumi in movimento, dal cibo agli accessori per la mobilità e il viaggio. Parola d'ordine: non fermarsi mai. Fai la maglia? Ah sì, e sto diventando brava. Ho eseguito una craniotomia su un ragazzo sveglio. Ho conosciuto una sorella che non sapevo di avere e ho visto mio padre ed è stato... Beh, non lo so com'è stato. Stai bene? Ho il mio lavoro a maglia. Da hobby a fenomeno di costume, parliamo del knitting, il lavoro a maglia. Da qualche anno ormai si è riscoperta quest'arte antica, spinta dalla tendenza del do it yourself, un passatempo trasversale per genere e per età, amato ed esibito anche dalle celebrities. Ne parliamo perché è sbarcato anche in Italia We Are Knitters, una piattaforma che è un po' community, un po' sito di e-commerce, tutta dedicata al mondo del lavoro a maglia. Vanta oltre 25.000 kit venduti in 20 paesi del mondo. Ce la siamo fatta raccontare dalla responsabile comunicazione per l'Italia, Lidia Pregnolato. We Are Knitters è un progetto nato a Madrid nel 2011, sbarcato da poco anche in Italia, dopo aver avuto insomma una diffusione anche importante in altri paesi come la Germania, la Francia e anche gli Stati Uniti dal 2014 in particolare. Si tratta di un'idea nata da due creatori che sono Maria José Marín e Alberto Bravo, che hanno pensato di invitare le nuove generazioni ad appropriarsi con modalità anche moderne, diverse, di una tradizione che diciamo che si è mantenuta viva per molti secoli, anche se è sempre stata un po' associata alle nonne, no? Oggi in realtà il lavoro a maglia è diventato invece un trend attuale che coinvolge migliaia di persone anche sui social network, quindi ha invaso anche un po' la virtualità, ecco. Chi sono i vostri knitters? C'è un profilo tipo? No, non c'è in realtà un profilo tipo, nel senso che si tratta di ragazze, giovani donne, donne più adulte e anche di uomini, anche diciamo delle celebrity piuttosto illustre come Russell Crowe, che ama appunto sferruzzare tra una ripresa e l'altra per ingannare il tempo, ma anche perché diciamo che lavorare a maglia ha un aspetto anche se vogliamo terapeutico, nel senso che da diversi studi è emerso che il lavoro a maglia è utile per sfogare lo stress, per rilassarsi, per allontanare diciamo i pensieri negativi, per concentrarsi su qualcosa di manuale e quindi non sempre attaccati a uno schermo piuttosto che al cellulare, e aumentare se vogliamo anche la propria autostima, perché comunque c'è della soddisfazione personale poi nel vedere un capo realizzato con le proprie mani e sfoggiato magari con gli amici, ecco. Diciamo che i kit di We Are Knitters sono veramente completi, nel senso che sono disponibili innanzitutto per tutti i livelli, quindi dai principianti al livello facile, all'intermedio e all'avanzato. In ogni kit c'è ovviamente un pattern molto dettagliato che spiega punto per punto come realizzare poi il prodotto finito. A scanso comunque di qualsiasi difficoltà ci sono anche moltissimi video tutorial, oltre che i post del blog e oltre al fatto che gli utenti possono rivolgersi direttamente a We Are Knitters. Un altro valore aggiunto che probabilmente ha decretato un po' il successo di questo brand è il fatto che i kit che indicativamente vanno dai 50 ai 200 euro, dipende poi dal tipo di capo, comprendono veramente tutto ciò che serve, dai gomitoli di qualità e disponibili in diversi filati, ai ferri di legno di faggio realizzati a mano, al pattern, l'ago da lana, l'etichetta We Are Knitters poi da abbinare, da applicare sul prodotto finito. La seconda storia di oggi ha a che fare invece con il mondo dei videogiochi, con Bartlex, la prima piattaforma per lo scambio dei videogiochi usati. Ci racconta come funziona Tommaso Baglioni, uno dei fondatori. Bartlex è una piattaforma che permette agli utenti iscritti di barattare videogiochi attraverso però l'utilizzo di una moneta interna alla piattaforma. Quindi ad ogni gioco è restituito dalla piattaforma un valore da noi prestabilito e appunto attraverso questa moneta interna è possibile scambiare tali videogiochi, quindi senza nessun tipo di interesse economico sottostante. L'idea nasce innanzitutto da ovviamente una problematica reale. Per chi è un nerd, si può dire. Non è un'offesa. Ma anche perché io sono il primo, quindi. Esatto, immagino. No, è semplicemente da dei limiti concreti che esistono nella circolazione dell'usato in generale, ma in più in particolare anche quello videoludico. Limiti dei negozi fisici che attuano un'elevatissima svalutazione dell'usato ritirato. E limiti invece dei negozi di compravendita online generalisti come possono essere Subito.it o eBay, che comunque lasciano l'utente in balia di se stesso a trattative estenuanti, eccetera, eccetera. Non è un vero e proprio sito di baratto, però libero baratto. Le condizioni sono definite dalla piattaforma in modo tale da garantire sia nella fase di acquisto sia nella fase di vendita completo equilibrio. La spedizione del gioco è gestita internamente per quanto riguarda i processi burocratici, mentre poi nell'atto proprio concreto è il venditore a cui viene fornito in maniera automatizzata dalla piattaforma l'indirizzo di spedizione dell'acquirente e dovrà occuparsene. E voi come e dove ci guadagnate? Allora, noi siamo in una fase iniziale, adesso stiamo puntando molto sullo sviluppo della community. Noi guadagniamo, allora, se io nel caso dovessi cedere un titolo di un valore X che può essere 10 e volessi ottenerne un altro dal valore 15, a patto che non venda un altro gioco, sarei bloccato. Bene, a questo punto l'utente può invece acquistare la differenza da noi, che per noi è un guadagno netto, mentre per l'utente riceve il credito interno sul proprio conto della differenza che gli serve e praticamente per un guadagno netto per noi lui ottiene potere di acquisto reale perché effettivamente nel microcosmo della piattaforma quella lì è il potere di acquisto. C'è stato proprio richiesto espressamente dall'utenza che utilizza il sito un metodo per sopperire a questa limitazione, perché ovviamente magari una persona a casa non ha due titoli da cedere, ne ha solo uno, però vuole comunque ottenere un titolo di valore superiore. La spesa di Joel comprende 14 pacchi di cracker, 38 kg di lettiera per gatti e 408 rotoli di carta igienica. Il valore dei suoi acquisti è di $652,20. Con i coupon, Joel ha pagato $50,35, un risparmio del 93% che gli farà iniziare bene il nuovo anno scolastico. Fare la spesa gratis utilizzando i coupon, una pratica che dagli Stati Uniti, vedi il popolare programma TV, sta contagiando anche l'Italia, dove spuntano le prime professioniste della spesa. Ne parliamo subito dopo la pausa, restate con noi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere si chiama Samantha Novelli, alias Lady Coupon, ed è una delle prime professioniste della spesa in Italia, capace di utilizzare al meglio i buoni sconto. Da 3 anni quasi faccio la spesa, sì, utilizzando questo sistema. vantaggioso. A volte succede di risparmiare anche fino al 70% da quello che realmente dovevamo spendere. Avendo un volantino vantaggioso con dei prodotti che generalmente in famiglia si consuma, si riesce davvero a risparmiare tanto. Generalmente i siti si aggiornano una volta al mese, due, tre al massimo se si parla di siti generici che propongono più tipi di buoni sconto, sia alimentari che non. E poi quando esce un nuovo volantino ci si mette lì per bene, si guarda tutte le pagine per vedere se i prodotti per i quali abbiamo i buoni sconto sono anche in offerta al supermercato, perché il nostro scopo è questo, associare il buono sconto al prodotto già in offerta al supermercato. Io ho una pagina Facebook che si chiama Lady Coupon Samantha Novelli, dove nel post fissato in alto indico i principali siti dove potersi registrare per stampare i buoni sconto. Ci sono molte promo che a volte consentono anche di guadagnare su quello che abbiamo speso in realtà. Cambia la maniera di gestione di tutto. Certo, non vado a comprare roba che comunque so che non consumiamo, però ci adattiamo. Vado dietro a quello che ormai mi propongono i buoni sconto, poi seguendo il gusto personale e tutto quanto, però si mangia anche quello che prima non si mangiava. Mi sono ritrovata in un gruppo con quasi 30.000 iscritti, quindi in Italia l'interesse c'è, reale e si vede. La tua casa è piena come quelle che si vedono nei programmi televisivi? Dunque, diciamo che ovviamente partecipando anche ai concorsi, sì, perché comunque si possono tipo ottenere dei buoni spesa a fronte di un acquisto di determinati prodotti. Quindi ovviamente potendo fare più partecipazioni a testa si comprano più prodotti per poter partecipare più volte. Quindi sì, diciamo ho una parte della mia casa apposta per mettere tutto quello che acquisto. Ma questa attività si è mai trasformata in un lavoro? Potrebbe? Ma me l'hanno chiesto in diversi, spero in qualche modo prima o poi che lo diventi. Focus sui trend. Dall'abbigliamento al cibo fino ai gadget tecnologici, i consumi puntano sempre di più su portabilità, compattezza e leggerezza. Pensati per tutti quelli che non stanno mai fermi, viaggiatori dunque, ma non solo. Ne parliamo con Lucia Cromesca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, ben trovata. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo da un oggetto che in poco tempo è diventato indispensabile, presente nelle tasche, nelle borse di molti di noi. Parliamo delle power bank, le batterie portatili per i nostri smartphone sempre a caccia di ricarica quando siamo in giro. Sono oggetti sui quali il design si sta sbizzarrendo. Ecco, vediamo una batteria portatile finalmente che è anche esteticamente gradevole oltre ad essere potente, anche se per ora è solo un concept. Si tratta del power bank di Philips, che si chiama Philips Power Potion, addirittura la pozione di energia. Questo è un progetto che non ricorda per niente un dispositivo elettronico, ha l'aspetto di una semplice bottiglietta d'acqua, tutto bianco, estremamente elegante, e che promette di far dissettare addirittura i nostri device. Come sempre le immagini sulla nostra pagina Facebook, poco tempo per fare tutto, dicevamo, Lucia, anche per mangiare, soprattutto per mangiare bilanciato. C'è chi ha intravisto in questa esigenza una bella nicchia di mercato da esplorare. Si va diffondendo questo fenomeno sempre di più, persone che vogliono sostituire parte della loro alimentazione con delle alternative create in laboratorio, pasti ready to eat, bevande ready to drink. Ecco, la Liu Expedition, un'azienda specializzata nel settore outdoor food, garantisce il massimo della performance fisica durante il trekking o una spedizione. Ha creato una linea di pasti e anche bevande liofilizzate con un peso minimo da poter portare con sé facilmente. Sono ermeticamente sigillati in doypack, ma hanno il massimo di valore nutrizionale. La nuova linea di smoothies è stata premiata con ISPO Outdoor Industry Award nel 2015. Quelli che stiamo descrivendo sono in qualche modo consumatori urbani, diciamo così. Una delle scommesse delle città del futuro è la mobilità. Mobilità che, fra le altre cose, punta sulla bicicletta, quindi anche sui prodotti, gli accessori per la bicicletta. Un'altra un'altra palestra di innovazione, Lucia. Senza dubbio, ecco che alcuni anni fa Geoffrey Wolff, un inventore inglese, ha pensato che i ciclisti userebbero molto di più il casco se fosse più semplice portarselo in giro, per esempio in ufficio, al cinema, al bar, sappiamo che è ingombrante. Così ha progettato un casco da bici che si chiama Morpher, che è il primo casco che si ripiega su se stesso, diventando sottilissimo, circa di 5 cm. Quando è dispiegato è veramente pratico e solido, ma quando si richiude è estremamente facile da riporlo nella cartella, nella borsa, anche nella tasca della giacca. Ho cominciato con una raccolta fondi su Indiegogo 3 anni fa, il progetto è stato sviluppato ulteriormente, ha superato tutti i testi e ha assicurato gli standard di sicurezza. Ha appena vinto il Taipei Cycle Show Awards del 2016. Molto importante per gli oggetti che stiamo raccontando la dimensione del viaggio o comunque dello spostamento, abbiamo detto. Sì. Ecco, ci sono tantissimi progetti in giro che dimostrano l'importanza della mobilità, la compattezza, della leggerezza. E questo progetto che adesso vi illustrerò è stato pensato proprio per gli appassionati delle grigliate all'aria aperta, quelli che vanno nei boschi, in montagna, e che quando manca un punto attrezzato devono avere un prodotto facile da usare. Formaxium è un'azienda che ha ideato e sviluppato qualche anno fa il grillo barbecue. Un barbecue leggerissimo, resistente, portatile e originale, che si ispira alla chiusura degli ombrelli, sembra quasi un ombrello, si compatta in un solo gesto da poter portare in spalla nella sua sacca facilmente, in acciaio inossidabile ovviamente. E poi c'è un altro progetto che è veramente eccezionale, perché tutti sogniamo cappi di abbigliamento leggeri come una piuma, che mantengono un fitting perfetto e ci garantiscono la massima libertà di movimento mentre in viaggio o durante i nostri innumerevoli spostamenti urbani, a prezzo ovviamente accessibile. Qualche settimana fa è stato presentato il rivoluzionario, oserei dire, prodotto di Benetton con queste caratteristiche, rigorosamente made in Italy. Si chiama TV3100, dal codice che identifica la località dove nel 1965 nacque la Benetton. Questo maglione pesa appena 130 grammi, è realizzato con un unico filo, senza cuciture, grazie a una tecnica di tessitura veramente innovativa che annulla gli sprechi di lana. La nuova collezione Limited Edition proporrà maglioni in 6 colori e sarà in vendita da novembre. Abbiamo spazio per un ultimo caso. Il progetto Fulfill Home è ancora esposto negli spazi della Biennale di Venezia, è stato proposto dallo studio indiano Anupama Kundu. È un prototipo di abitazione ecosostenibile e modulare, un'abitazione pensata da semplici blocchi cavi che possono essere assemblati facilmente come se fossero mattoncini Lego. Grazie allo sviluppo di pannelli in ferro cemento, spessi solo 25 mm, ovviamente un costo veramente contenuto grazie a questo sviluppo, è possibile costruire in solo 6 giorni una casa perfettamente funzionante, mentre bastano 24 ore per smontare tutto. Questo tipo di abitazione è stato pensato per le aree rurali più povere dell'India, ma potrebbe facilmente prendere piede anche altrove, per esempio in aree a frequente sismicità, come qui in Italia. Il prototipo avrà anche una seconda vita al termine della rassegna, sarà spostato e diventerà un rifugio per senza tetto nella vicina Marghera. Grazie Lucia, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite fisso, ci ha raggiunto in studio come sempre per la riflessione finale il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato. Buonasera Maria Luisa e radioascoltatori. Lo avevamo anticipato 2 settimane fa, ora è arrivato a conclusione per quest'anno perlomeno il percorso del Festival della Crescita e l'elaborazione del Manifesto per la Crescita. Sì, devo dire è stato un momento, 4 giorni di grande riflessione un'azione comune collettiva. Siamo partiti dai famosi 9 punti che avevamo presentato anche qui, ma la cosa più bella è stato rivederlo, integrarlo con i diversi ambasciatori della crescita. Allora io leggo, lo abbiamo già postato anche sulla nostra pagina Facebook, parto dalla fine: valorizzare dal basso le risorse dei cittadini innovando per includere. Molte storie di eccellenza in Italia lo testimoniano. Sì, e in più devo dire che è stato il terreno su cui abbiamo avuto i contributi più importanti da tutta Italia. È venuto il vice sindaco di Siracusa, abbiamo avuto l'amministrazione pubblica di diverse città italiane e in più abbiamo avuto l'occasione di presentare questa associazione milanese che si chiama proprio Innovare per Includere. E l'idea quindi è che il cittadino sia anche una risorsa, non soltanto un cliente da servire. E su questo devo dire abbiamo davvero raggiunto un punto di equilibrio molto interessante. Ancora un tema a noi caro, quindi la comunicazione, riscoprire la verità all'insegna dell'inevitabile tracciabilità, quindi un richiamo alla trasparenza. Un richiamo alla trasparenza, ma soprattutto una riflessione sull'inevitabilità di questo percorso, per cui spesso noi ragioniamo sulla verità in termini o buonisti o illuminati, no? Quindi chi sposa questa visione cerca di essere onesto nei confronti dei clienti e dei consumatori. Quello che durante il festival invece è emerso è che è inevitabile questo passaggio, quindi chi per primo lo fa gode di un vantaggio competitivo, no? Quindi c'è una convergenza tra l'utile e il dilettevole e il buono, diciamo. Il manifesto della crescita felice, ovviamente, quindi una crescita sostenibile a livello sociale e ambientale. Invitiamo anche gli ascoltatori, Francesco, a commentare, a suggerirci le integrazioni, perché rimane una piattaforma open. Rimane una piattaforma open e sarà la base poi del tour 2017 che partirà dal Veneto e poi da Roma in giù, andremo in tante altre città e quindi sia sul sito del festival che sulla pagina Facebook abbiamo la possibilità di intervenire e contribuire, perché questa è l'idea fin dall'inizio di un festival partecipato. Grazie a Francesco Morace, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Essere Avere torna come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.